Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, la lettera è stata mandata e la lettera è arrivata. Di questo parleremo chiaramente, anche perché ci sono molte reazioni e dichiarazioni. Il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia, il Presidente di Confindustria, oggi a Milano, per Milano Unica, sulla lettera e sui dettagli di questa lettera. Che però, stando a quanto dice Bruxelles in maniera molto chiara, non è che convinca completamente Bruxelles. La Commissione europea si aspettava una risposta più dettagliata. Queste sono ancora fonti, non c'è nulla di ufficiale, fonti dell'Unione Europea. Non contiene quindi, se queste fonti venissero confermate, le indicazioni che Bruxelles si attendeva. E questo potrebbe essere un primo problema. Poi vedremo che cosa succederà nel frattempo e quale sarà poi la risposta ufficiale, perché queste, ripeto, sono ancora adesso delle fonti non specificate. Domani c'è il vertice informale a Malta, dove il Presidente del Consiglio Gentiloni incontrerà il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, e poi il 13 febbraio la Commissione Europea pubblicherà le previsioni economiche d'inverno per la zona euro, e poi a fine febbraio il report sul debito e il rapporto per ogni singolo paese. Se a quel punto la Commissione non fosse soddisfatta e ritenesse il bilancio dell'Italia non conforme alle regole, l'apertura di una procedura di infrazione sarebbe inevitabile. Certo, a questo punto un giudizio anche politico, perché sarebbe tra l'altro la prima volta che un paese che non ha superato il tetto del 3% del deficit, che è considerata la linea di guardia e che tra l'altro è superato ogni anno dalla Francia, un paese che pure è sotto il 3%, sotto la linea di guardia, viene sanzionato, nel senso che le procedure di infrazione le abbiamo sempre viste. Tra l'altro se le beccò, oltre che l'Italia, nel 2003, vado a memoria, se le beccarono proprio Francia e Germania a quel tempo, ma dico, le abbiamo sempre viste applicate per chi va sopra la soglia massima consentita del deficit sul PIL, il 3%, non le abbiamo mai viste applicate per chi è sotto il 3%, ma non così sotto come aveva promesso, per farsi capire. E di questo parleremo. Nella lettera, avete letto, c'è la lotta all'evasione, taglia la spesa, e poi però il Ministero all'Economia e Finanze dice: attenzione, un aggiustamento dei conti troppo rapido, eccessivamente accelerato, danneggerebbe l'economia. Vuol dire che, insomma, se devi aggiustare i conti attraverso le tasse, poi quel poco di ripresa che c'è in Italia te lo giochi o rischi di giocartela, sicuramente sul fronte dei consumi interni. Di questo, dicevo, parleremo ampiamente in apertura del programma. Dopodiché, come sempre, la borsa, lo spread oggi è abbastanza stabile. Per quello che riguarda la borsa invece, vedo come andamento degli indici Milano più 1%, mentre da questo punto di vista Parigi fa più 0,20, Francoforte meno 0,10 e Londra più 0,60, Dow Jones invariato, euro su dollaro un leggermente rafforzamento a 1,08, va molto bene la Ferrari dopo i conti, più 3,30, Hux Santa Porte più 3, Italgas più 2,90, Generali più 2,70, Mediobanca più 2,5, Prismian più 1,80 come Terna, Snam più 1,60 come Telecom Italia e anche Luxottica. Chi è negativo oggi? Saipem il 2%, Unicredit meno 1,13. Di Unicredit parleremo, l'altro tema di approfondimento, perché abbiamo avuto i dettagli sull'aumento di capitale, un aumento a forte sconto, o comunque a sconto, fissato, perché del 38% rispetto al prezzo teorico calcolato al netto dello stacco del diritto di opzione, e quindi 38% in meno come sconto, 8,09 euro per azione. Il titolo Unicredit, faccio notare che adesso di euro per azione ne quota 26,32, ma ripeto, se si leva lo stacco del diritto di opzione lo sconto è di circa il 38%. L'aumento avverrà in borsa dal 6 febbraio al 10 marzo, prossimi, quindi sostanzialmente 13 nuove azioni per ogni 5 titoli che uno ha in portafoglio. E questo dovrebbe, tra l'altro Cari Verona, la Fondazione Cari Verona ha detto che parteciperà all'aumento con un investimento in modo parziale rispetto alla propria quota, e quindi fino a 220 milioni, sottoscriverà fino al 73% di azioni come opzione sulla propria quota, che attualmente è del 2,23%. Ne parleremo lungamente dopo i mercati finanziari. Infine, l'ultimo tema, telefisco, perché si sta concludendo la 26esima edizione del convegno che ogni anno organizza Sole 24 Ore, dedicato ai temi e alle normative, alle novità di carattere tributario. Quest'anno il focus, nello specifico, era sul decreto legge fiscale, sulla legge di bilancio e le nuove regole sui bilanci. Ricordo che sono state oltre 100 le sedi collegate in tutta Italia, con la sede qui centrale del Sole, via Monterosio 91. E sono intervenuti tra l'altro la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il vice ministro dell'Economia, Luigi Casero. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Rapidamente le altre notizie in breve. Ricordo che c'è sempre anche la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, andiamo con l'economia internazionale. Per quello che riguarda Trump, continua a far parlare di sé. Il presidente statunitense, infatti, continua la sua campagna anti-immigrati. Ha litigato oggi con i leader sia del Messico, e già era successo la settimana scorsa, che quello australiano. Allora, in una telefonata abbastanza burrascosa, Trump con Nieto avrebbe minacciato di inviare le truppe statunitensi se dal Messico continueranno a giungere quelli che ha definito bad hombres, quindi un misto di spagnolo, inglese, cattivi uomini, cattivi ragazzi, bad hombres, vabbè, cattivi uomini sarebbe in questa traduzione un po' così da esperanto. Però è molto burrascosa anche la telefonata con il premier australiano Turnbull, accusato di voler esportare terroristi negli Stati Uniti. Intanto, da quello che si capisce, i colossi americani della tecnologia, tra cui Apple, Facebook, Google, Uber, lavorano a una lettera nella quale si dovrebbe affermare che l'America è resa forte dagli immigrati, chiaramente quelli regolari e non gli altri. La Casa Bianca poi ha specificato che le truppe in Messico sono una battuta. Non so se Trump cosa vuole rispolverare Fort Alamo, ma insomma. E poi invece dall'Australia le fonti confermano che la telefonata è stata molto tesa tra Australia e Stati Uniti. Devo dire che l'Australia è abbastanza singolare, perché è un alleato da sempre, un po', se vogliamo, mutatis mutandis, quella che la Gran Bretagna è in Europa e l'Australia nel sud-est Pacifico. C'è un alleato preferenziale degli Stati Uniti da sempre. Le truppe australiane parteciparono anche alla guerra in Vietnam, per cui insomma è particolarmente significativa una tensione anche con l'alleato più forte che ha in tutto il Pacifico. Comunque. E poi ha aggiunto Trump su Twitter: l'accordo dei rifugiati con l'Australia è stupido. L'amministrazione Obama si è detta d'accordo nel prendere migliaia di migranti legati all'Australia. Studierò questa stupida intesa e la rivedrò. E poi oggi invece andiamo sull'Europa. Mario Draghi, che è intervenuto a Lubiana, e ha detto: la politica commerciale decisa in comune dà all'Europa una reale influenza nei negoziati globali, cioè se l'Europa tratta come unico soggetto ha più forza rispetto ai singoli paesi. E poi: abbandonare l'euro, alcuni oggi credono che l'Europa starebbe meglio se non avessimo una valuta comune e se si potesse svalutare il cambio, ma come abbiamo visto i paesi che hanno fatto le riforme non fanno affidamento sul cambio flessibile per la crescita, e quelli che non si sono riformati bisognerebbe chiedersi quanto sarebbe d'aiuto una svalutazione del cambio. E poi: l'Unione Europea non può restare com'è, serve una spinta all'integrazione. Nel frattempo la Banca Centrale Europea ha fatto sapere che da questo punto di vista i tassi resteranno bassi ancora a lungo, e che il QE, quindi lo stampaggio di euro, potrebbe anche andare oltre il dicembre del 2017 se sarà necessario. L'inflazione è leggermente aumentata, ma l'indice core, cioè quello al netto dei prezzi dell'energia non convince, dice la Banca Centrale Europea. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è chiaro che l'inflazione è anche mossa spesso dai prezzi delle materie prime e dell'energia, però l'inflazione sana, quella che vorrebbe vedere la BCE, quella che significa che i consumatori dell'area euro hanno ripreso a spendere, a consumare, quindi c'è un po' di tensione sui prezzi perché c'è un po' più di acquisti, ci sono un po' più di acquisti, beh, quella non si vede ancora, quella è la parte dell'indice core, cioè si vede un po' di inflazione magari per le variazioni del prezzo del petrolio, ma quella è inflazione importata. L'inflazione sana, intesa come un'inflazione che dimostra un dinamismo virtuoso dell'economia, ancora non c'è. Andiamo, guarda, chiudo la battuta su Trump. Guarda che a me, io non rosico, abbiamo messo in evidenza tanti aspetti non positivi ma obiettivamente sorprendenti di Trump, proprio dopodiché che uno vada storicamente, si legge un bel libro di storia dell'economia e scopre che tutte le volte che si sono messe delle barriere i paesi si sono impoveriti, e tutte le volte che il commercio in maniera regolata, non in maniera alla giungla, è stato regolamentato, ma sono stati tolti dazi e barriere, le economie di quei paesi sono cresciute. Questo, cioè, basta prendersi qualunque saggio dell'economia, non c'è un paese che abbia adottato misure protezionistiche che nel medio termine abbia visto una crescita economica. E poi la Gran Bretagna, dove il ministro per la Brexit, David Davis, ha detto che il governo di Theresa May non ha alcuna intenzione di buttare fuori la gente dalla Gran Bretagna e né buttare fuori i cittadini europei, e ha rassicurato sui cittadini europei già residenti in Gran Bretagna. Però i dati di oggi confermano un calo delle iscrizioni nelle università della Gran Bretagna, un meno 5%, pesano da un lato un minor numero di studenti dell'Unione Europea e dall'altro meno 7%, Italia compresa, e dall'altro anche un tracollo delle scuole infermieristiche britanniche, perché anche qui da un lato ci sono meno europei che iscrivono le scuole infermieristiche, dall'altro c'è stato anche un aumento delle rette. Allora, prima di passare al primo tema, e quindi la lettera di Bruxelles, la lettera dell'Italia a Bruxelles, una notizia che riguarda invece il nostro paese e che riguarda anche il nostro paese, mi riferisco al terremoto, perché il governo ha varato il decreto con nuove risorse. Il Consiglio dei Ministri ha già approvato il decreto in favore della popolazione del centro Italia colpita dal terremoto, è il terzo provvedimento urgente. Contiene nuove risorse per l'emergenza pari a centinaia di milioni. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Per ora si tratta, come ha detto il Premier Gentiloni, di diverse centinaia di milioni in attesa di quel miliardo che l'Italia ha chiesto all'Europa di poter mobilitare per far fronte all'emergenza del terremoto, senza che ciò abbia impatto sul deficit. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in favore delle popolazioni colpite dal sisma ed è il terzo che il governo si è trovato a varare per un'emergenza che non sembra avere fine e che riguarda le popolazioni di quattro regioni colpite nel centro Italia. È confermata la sospensione del pagamento dei tributi e il mantenimento delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori. Verranno costituite zone franche per il 2017-2018 al fine di facilitare gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma. Significa che chi investe non pagherà imposte sui redditi fino a 100.000 euro, non pagherà l'IRAP fino a 300.000 euro e sarà esente da tutte le imposte municipali. Saranno necessarie anche importanti semplificazioni normative per la concessione degli appalti velocemente, per la ricostruzione delle scuole e di altri edifici pubblici considerati strategici. Sarà consentito alle regioni di reperire anche immobili da destinare ad abitazione temporanea per chi abbia perso la casa. Ci sono quasi 20.000 sfollati e interventi programmati in oltre 500 comuni. Sono stati mobilitati quasi 20.000 operatori per la gestione dei soccorsi e sono in programma nuove assunzioni di tecnici negli uffici per la programmazione delle ricostruzioni. L'emergenza terremoto è devastante e resta la priorità del paese in questo momento. Francamente sarebbe assurdo se diventasse l'occasione per uno scontro all'arma bianca tra Roma e Bruxelles. Alla fine il buonsenso deve prevalere, interessa all'Italia, ma interessa anche all'Europa alla ricerca di se stessa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, alcune sms e messaggi su WhatsApp. Allora, è chiaro, qualcuno mi scrive, beh, la Cina, per esempio, infatti la Cina l'abbiamo spesso criticata quando, ma le è stato concesso di applicare dazi e tariffe o fare, peggio ancora, dumping, e quindi andare a vendere sotto costo, fare dumping o fare, penso a tutto quello che succedeva con i metalli, con l'acciaio in Europa, ma anche tariffe molto alte che pone la Cina in alcuni casi. Io non ho detto che l'assenza di tariffe significhi la giungla, il vinca più forte. Ho detto che quando i processi di liberalizzazione economica sono regolati c'è un vantaggio reciproco. Questo vale sia per quello che è stato fatto sulla Cina, sia per altri casi. Vogliamo allargare il tema, poi passiamo oltre. Pensiamo solo al fatto che le multinazionali si avvantaggiano di un mercato globale, ma poi vadano a pagare le tasse, abbiamo detto più volte, dove fa più comodo, molto locale, addirittura in Irlanda. Questo gliel'ha consentito l'Europa, per esempio, nel caso nostro. Adesso Bruxelles sta correndo ai ripari, ma il fatto che ogni paese potesse fare la tassazione che voleva, a partire dal Lussemburgo di Juncker, e che ci siano inchieste in corso addirittura per accordi sotto banco, per garantire, porta da me la sede fiscale, che così ti do questa tassazione. Abbiamo raccontato di tassazioni ridicole per i colossi. Questo è inaccettabile, questo non è globalizzazione, questo è fare il che cavolo vuoi. Altra cosa è aprire i mercati, non mettere barriere, ma avere la reciprocità. Non è solo il tema della Cina, guardate che è anche il tema delle multinazionali che producono dove più gli conviene, vendono ai prezzi nei paesi dove più gli conviene e dichiarano al fisco dove c'è la legislazione fiscale più conveniente, no, con casi abnormi, per cui fatemi star zitto, guarda, ma insomma tu fatturi in Italia e Francia e poi però paghi le tasse in Irlanda, ma che è sta cosa? E lì è sbagliato, perché questo significa favorire dei soggetti, mentre il singolo imprenditore italiano, francese o spagnolo non può fare il giochetto. Allora, andiamo sui conti pubblici. Alcuni continuano a scrivermi da giorni, ma insomma, a chi dobbiamo questo debito? Lo dobbiamo alle politiche. C'è una curva bellissima che ti dimostra quando inizia a salire il debito pubblico in Italia, dalla metà degli anni 70 in poi, alle politiche di quegli anni, quando con la lira tanto si svalutava. Dove sono i teorici del ritorno alla lira e non si ricordano mai che quel debito l'abbiamo accumulato perché tanto si svalutava un po' la lira, noi imbarcavamo debito e tutto continuava, perché tu con un po' di svalutazione te ne fregavi dei tuoi figli e dei tuoi nipoti. Abbiamo accumulato con la lira il debito, non con l'euro. Vabbè, andiamo invece alla lettera dell'Italia, la risposta che si attendeva a essere più dettagliata da parte di Bruxelles. C'è un'indicazione appunto per arrivare a questi 3,4 miliardi, si cita riduzione della spesa, grazie anche a nuove modalità di costruzione del bilancio dello Stato, e poi provvedimenti di contrasto all'evasione fiscale, un aggiustamento troppo rapido avrebbe avuto effetto negativo sull'economia, il bilancio completamente in linea con il patto, l'impatto del terremoto è oltre un miliardo, anche se non si può stimare con esattezza l'importo, entrate anche da imposte dirette e accise, e accise. E poi il governo sta pianificando di adottare misure come una strategia più complessiva sulle agevolazioni fiscali. I dettagli saranno nel prossimo documento di economia e finanza. E poi i risparmi della spesa per la pubblica amministrazione arriveranno per il 90% dai consumi intermedi, questi famosi 130 miliardi di beni, e per il resto dai benefici fiscali. E poi il Ministero dell'Economia e Finanza dice che i risultati sono più che soddisfacenti sul debito e stima che quest'anno il deficit scenderà al 2,1% in seguito all'aggiustamento chiesto dalla Commissione Europea. Il premier Gentiloni ribadisce questi punti in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dice ok, noi rispettiamo le regole ma senza decisioni che possono avere un effetto, un impatto depressivo sull'economia. Siamo convinti che le risposte che abbiamo dato nel corso di questi anni e da ultimo con la lettera che abbiamo che ha inviato ieri il Ministro dell'Economia sia in linea con una situazione nella quale l'Italia rispetta le regole ma lo fa senza prendere decisioni che possono avere un effetto negativo, depressivo sulla nostra economia e sulla nostra crescita. Questo è il momento, e credo che tutti se ne rendano conto in Europa, di accompagnare la crescita, che è ancora meno forte di come noi vorremmo, e di prendere quindi, nel rispetto delle regole europee, le misure nei modi e nei tempi che consentano di accompagnare la crescita e non di avere effetti contrari, cioè depressivi. Non descriverei, tra l'altro, questa questione delle cosiddette procedure di deficit eccessivo come commissariamenti, no? Ma lo dico non per sottovalutarne le implicazioni. Noi non siamo in quella procedura e abbiamo deciso da sempre di rispettare le regole e quindi di non entrare in quella procedura di deficit eccessivo, nella quale sono un grandissimo numero di paesi europei, grandissimo. L'Italia non fa parte di questo gruppo per tante ragioni legate anche al peso del nostro debito pubblico, che in qualche modo ci costringe ad avere una politica di contenimento strutturale del deficit che abbiamo sviluppato nel corso di questi anni. Allora, intanto ringrazio Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, per averci raggiunto in collegamento. Buonasera Guido. Buonasera. Che oggi su Sole 24 Ore scrive il commento alla lettera italiana, piccola cifra, virgola, grande problema. Vorrei ascoltare ancora Gentiloni sul terremoto, che dice abbiamo risorse, non aspettiamo l'ok da Bruxelles, abbiamo già risorse nella legge di bilancio. Abbiamo risorse nella legge di bilancio, ne stiamo mettendo in campo ulteriori con questo decreto. Abbiamo già anticipato ieri nella lettera che il Ministro dell'Economia ha mandato a Bruxelles per rispondere alla necessità dell'aggiustamento che la Commissione aveva chiesto. Abbiamo già parlato della necessità di ulteriori risorse. Nella lettera di Padoan si parla di almeno 1 miliardo che nel prossimo periodo sarà necessario. Intanto però non è che possiamo aspettare chissà quali superiori determinazioni. Noi decidiamo, ci prendiamo le nostre responsabilità, cerchiamo di rispondere nel modo migliore possibile alla situazione che si è creata. Allora, Guido, ancora un po' di pazienza perché voglio far ascoltare altri due passaggi del ministro Padoan, poi presidente Confindustria e quello di Confcommercio. Resta con noi perché, come tu già scrivevi questa mattina su Sole 24 Ore, insomma, c'è una variabile molto molto politica. Dimmi solo una cosa prima del meteo, insomma, dobbiamo preoccuparci di queste agenzie sulle fonti di Bruxelles o ritieni che alla fine, visto che sarebbe la prima volta che si apre una procedura di infrazione per un paese sotto il 3%, non che ha superato la soglia, diciamo, la linea del Piave, si troverà una soluzione così più accomodante? Io penso che si troverà alla fine una soluzione, certo con un compromesso presumibilmente a ribasso un po' per tutti, cioè sia per l'Italia sia per la Commissione. Però io non credo che si arriverà fine a uno showdown per cui ci sarà la procedura di infrazione, perché come giustamente ricordavi te sarebbe per la prima volta e noi diciamo comunque abbiamo rispettato il tetto del 3%, anche se è vero che noi continuiamo a recitare questo mantra del rispettiamo gli impegni, però in realtà insomma non è nemmeno vero, insomma, quindi ci sono dei conti che non tornano già nella manovra del 2017, erano stati già evidenziati dalla Commissione europea e soprattutto il percorso di riduzione del debito non procede come dovrebbe e quindi insomma è una partita, è un negoziato complesso, ma insomma due debolezze poi non fanno una forza, ecco. Sì, sono d'accordo con te, nel senso che cioè noi continuiamo a dire a Bruxelles che quest'anno sarà quello buono e poi non lo facciamo. Poi vorrei capire anche quanta parte di elettorale inteso come referendum abbia indebolito la manovra e adesso, visto che la campagna elettorale non è mai ufficialmente iniziata ma non è mai ufficialmente finita in questo paese, vorrei capire la proiezione anche per i prossimi mesi. Dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare la lettera italiana a Bruxelles. Ascoltiamo ancora due passaggi del Presidente del Consiglio Padoan per quello che riguarda le misure. Qualcuno mi dice ma non ci sono tagli alla spesa pubblica? Sì, quello che abbiamo letto è spesa pubblica intesa come spesa per beni intermedi, 133 miliardi più o meno che ogni anno spendiamo per gli approvvigionamenti, non spesa pubblica intesa come pensioni o stipendi. L'aggiustamento vale lo 0,2% è indispensabile, 1 miliardo di misure anti-evasione, ha detto Padoan, l'IVA non si tocca. Non si tratta quindi di una manovra estemporanea, ma misure bilanciate di aggiustamento, ma anche di sostegno che andranno prese. Ribadisco quindi che si tratta di una riduzione necessaria dell'indebitamento netto strutturale rispetto al valore tendenziale di 0,2 punti di PIL. L'aggiustamento si compone per circa un quarto da tagli di spesa selettivi, si compone per circa tre quarti da misure sulle entrate, in particolare 1 miliardo è atteso da maggiori entrate derivanti dal rafforzamento di misure contro l'evasione che si sono già mostrate efficaci, mentre sono esclusi interventi sull'IVA e sulle agevolazioni fiscali. È escluso l'utilizzo, l'estensione a questi fini di ulteriori round di voluntary disclosure. Ma a queste misure di contenimento della spesa e di aumento delle entrate si accompagnano altre misure di segno opposto. Si intende infatti stanziare una cifra superiore a 1 miliardo di euro per affrontare le conseguenze dell'ultima scossa di terremoto e in generale dell'attività sismica di questi tragici mesi. E poi Padoan dice attenzione, l'ipotesi di una procedura di infrazione è estremamente allarmante. Questo per quello che riguarda il ministro dell'economia Padoan. Un commento l'ha fatto la nostra Cristina Carpinelli e anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine della presentazione di Milano Unica. Una risposta che è in linea, diciamo, su quella che era la posizione italiana, che riconferma però un elemento di attenzione. Una parentesi da chiudere quanto prima per la questione legge di bilancio attuale, ma da riaprire immediatamente per una politica economica per la crescita in chiave europea ed italiana. La nostra premura è che il Paese non si concentri solo su legge elettorale e su elezioni, ma si concentri anche su un piano economico di medio termine per la competitività delle imprese italiane, ma anche per una proposta europea. Quindi facciamo tattica, ma anche strategia e visione, altrimenti perdiamo di vista le priorità del Paese. Sono dei provvedimenti che mettono in sicurezza la questione rapporto governo italiano con l'Europa, ma non sono dei provvedimenti strutturali e non spingono per la crescita. Proprio per questo dobbiamo rifare un percorso inverso, cioè prima decidere quali effetti vogliamo determinare sull'economia reale in chiave italiana ed europea, poi individuare strumenti, poi risorse e poi intervenire sui saldi di bilancio. Mi sembra che il percorso che si sta facendo, il rapporto di confronto tra il governo italiano e l'Europa, sia di intervenire sui saldi di bilancio prescindendo dagli effetti sull'economia reale. Ecco, ribaltare questo paradigma di pensiero è la grande priorità che il Paese deve affrontare sia in chiave interna che in chiave europea. E l'ultima dichiarazione è quella di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, a microfono questa volta della nostra Alessandra Schepisi. La richiesta di correzione dei conti, sinceramente, ci sembra più un puntiglio che una questione di sostanza. Noi restiamo convinti che oggi c'è necessità, c'è bisogno di una Europa che risponda alle attese dei cittadini e delle imprese, il che significa in primis evitare qualsiasi incremento delle tasse. E a proposito di una ventilato aumento delle accise, ecco, noi diciamo che più coraggio e determinazione nel taglio della spesa pubblica, cosa che noi diciamo da parecchio tempo, può certamente evitare questo aumento. Allora, Guido Gentili, un solo inciso, visto che lo citavo prima, le statistiche sul nostro debito sono facilmente rinvenibili in internet, sui siti affidabili. È sempre in proporzione al PIL, questo lo dico perché non è il valore assoluto che interessa, è il debito fratto, come si dice una volta, il PIL. È chiaro che se il PIL crolla, anche se tu non spendi un euro in più, questo rapporto aumenta a dismisura. Ma fino al 1980, lascio stare gli anni 60 in cui avevamo un debito che era il 33% del PIL, al 1980 è ancora il 56%, raddoppia in tutti i famosi anni 80, la Milano da bere, quando c'era la lira, dal 56 arriva nel 1990 al 95%, quindi abbiamo raddoppiato il debito nei mitici anni 90, nei mitici anni 80. Quindi, poi c'era la svalutazione della lira, si svalutava e tutto si teneva, tranne i nostri figli e i nostri nipoti. Poi dal 1980 al 2000, in realtà il debito prende un'impennata, 92, 93, 94, arriva al 113%, poi quando dobbiamo entrare nell'euro ridiscende, ricorderete le manovre monster per entrare nell'euro, e scende a 109, poi al 104% del PIL nel 2000. Noi entriamo nell'euro con un debito che è il 104% del PIL. Continua a scendere, scusate, nel 2004 è al 99%, cioè va sotto il 100%, è del 99% anche nel 2007. Nel 2008, quando scoppia la crisi economica oltre che finanziaria, il debito è al 102% del PIL. Poi, con un crollo del PIL, se non ricordo male, di 4 punti percentuali, adesso vado a memoria, e la recessione che ne consegue, è chiaro che il debito schizza, perché poi dal 2009 va al 112, 115, 116 e via così. Però voglio dire, il grosso del debito, cioè il raddoppio del debito pubblico, con una crescita economica, quindi meno giustificabile rispetto alla più grande recessione dal 29, è stato fatto dal 1980 al 1990. I teorici della lira dove sono, dove erano e cosa cavolo votavano in quegli anni, e basta. E certo che ne abbiamo guadagnato, qualcuno se ne ricorda i bot al rendimento del 9, 10, 12%, tutti contenti, i bot rendevano, tu ti indebitavi il futuro dei figli, ma eravamo tutti contenti, no? L'evasione era lì, si svalutava la lira quando le imprese avevano problemi a esportare, questo era il mondo fantastico. Ma hai raddoppiato il debito in 10 anni, quindi i nostri genitori e chi ha lavorato dagli anni 80 agli anni 90 si assume la responsabilità di quello che ha fatto, eh? Guido Gentili, scusami, ma è da ieri che continua questa polemica sull'euro. Dicevamo, quanto di elettorale c'è in questo richiamo dell'Europa? Voglio dire, c'è stata una finanziaria un po' troppo lasca perché c'era il referendum del 4 dicembre, senza girarci attorno? Sicuramente sì. Sapevamo tutti che ovviamente il governo sperava in un risultato della vittoria al referendum costituzionale, ma lo sperava anche l'Europa, la Commissione europea, Per cui non dico che si è chiuso un occhio al momento della messa a punto della manovra per il 2017, ma certamente si pensava che, diciamo, in nome della stabilità quei provvedimenti, diciamo, potessero poi innescare anche una crescita più forte. Non è andata così, il risultato politico è stato diverso da quello atteso e ricordo che comunque proprio il giorno dopo il risultato del referendum l'Eurogruppo già disse allora attenzione Italia, devi rientrare comunque, diciamo, nel rispetto degli impegni presi e quindi devi verificare se c'è l'esigenza di fare una manovra sostanzialmente. Quindi da quel momento è stato chiaro che, diciamo, la Commissione europea, siamo arrivati poi fino alla lettera del 17 di gennaio, la lettera ufficiale, ci richiamava al rispetto degli impegni presi e cominciava a evidenziare che dal lato del debito, ad esempio, l'Europa prevede una crescita del debito al contrario di quelle che sono le previsioni del governo italiano. E quindi sono entrati anche nel mirino, per così dire, anche tutti i provvedimenti che dal lato delle entrate sono stati impostati con la manovra per il 2017, ci sono molte una tantum, ci sono altre manovre che riguardano la lotta all'evasione di cui è incerto ovviamente il gettito possibile che arriverà alla fine e quindi ci sono degli elementi critici che sono stati sottolineati poi anche dalla Corte dei Conti, dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio parlamentare di bilancio che pesano, diciamo, su questa contabilità oggi e su questo braccio di ferro che c'è tra Roma e Bruxelles. Quindi questo è un dato di fatto su cui ovviamente di cui bisogna tenere conto. E quello che riguarda invece l'aggiustamento possibile, perché insomma noi abbiamo detto risparmiamo un po' in spesa pubblica, in evasione fiscale, ma insomma alla fine tu ritieni che con tutte le scadenze politiche, se ho ben capito, tutto si risolverà, diciamo, in un accordo più o meno accomodante, perché anche l'Italia è in campagna elettorale. Ma l'Italia purtroppo, diciamo, non è mai uscita dalla campagna elettorale, perché tutto il 2016 sostanzialmente è andato via sull'idea, diciamo, di quello che era l'appuntamento del 4 dicembre e quindi è stata una lunghissima campagna elettorale. E anche un errore di politica, di tattica politica da parte del governo Renzi. L'abbiamo sottolineato tante volte, certo, perché aver puntato tutte le carte, a parte la personalizzazione che è stata fatta dal Presidente del Consiglio, ma aver puntato tutte le carte politiche su quell'appuntamento ha fatto così che una volta, diciamo, che invece il risultato del referendum popolare è stato un altro, diverso da quello atteso, e ovviamente le conseguenze politiche sono state forti. Quindi siamo passati comunque da una stagione di campagna elettorale a una stagione di, chiamiamolo, di pre-campagna elettorale un minuto dopo l'esito del referendum, perché poi sono scattate, diciamo così, è scattato il discorso su anticipare le elezioni previste per il 2018 e anticipandole al 2017. Quindi insomma il paese non è mai uscito da una campagna elettorale esplicita o sottotraccia che sia, e quindi questo dovrà tener conto sia l'Italia ovviamente da un lato, e questo è un elemento di incertezza e di difficoltà che tra l'altro pesa sui mercati, e quindi non dimentichiamo anche questo aspetto, perché al di là del braccio di ferro sullo 01-02 tra Roma e Bruxelles c'è anche la realtà che ogni giorno ci impongono i mercati, quindi questo dobbiamo tenerne conto. Quindi c'è incertezza da questo lato qui, e anche l'Europa, però l'Europa sappiamo che attraverso un momento di enorme difficoltà, sappiamo che quest'anno è un anno tra l'altro elettorale, si vota in Olanda, si vota in Francia, si vota a fine settembre in Germania, e quindi diciamo le elezioni pesano un po' dappertutto, e credo che nessuno nell'Italia può permettersi uno strappo violento, anche perché non ha mai preso in considerazione un'ipotesi che sulla carta teoricamente c'era, cioè di fare come ha fatto la Spagna, di come ha fatto la Francia, di dire io faccio una manovra in grande stile, supero il tetto del 3% e mi assumo questa responsabilità e faccio questa scommessa. Non l'ha fatta, siamo stati sotto il 3% e quindi dobbiamo arrabattarci nel rispetto delle regole giocando sullo 0,1 o sullo 0,2. Mm. D'altra parte l'Europa è nelle condizioni in cui dicevo prima, non è fortissima, ha una credibilità diciamo ridotta rispetto agli occhi dei cittadini europei. La Commissione è un organo in fondo politico, alla fine, soprattutto questa Commissione Juncker è una Commissione che poi decide tenendo conto di tanti elementi e si arriva poi alla possibilità concreta di quello che dicevo all'inizio, di un accordo a ribasso un po' per tutte e due. Un accordo a ribasso per arrivare a un punto di caduto, appunto di unione, anche se a ribasso. Grazie a Guido Gentili, devo dare assolutamente il traffico adesso, poi c'è una marea di persone che tu gli puoi leggere i dati, si trovano su internet, la storia, la serie storica del debito pubblico italiano rispetto al PIL inizia nel 1862, per la precisione allora era il 46% del PIL, ok? Quindi uno può dire quello che vuole. Io non ho mai detto che i nostri genitori hanno vissuto, sì, certo, sopra probabilmente la loro possibilità, il paese ha vissuto. Qualcuno mi scrive: mio padre si è spaccato la schiena, ma chi ha detto nulla? Però le serie storiche sono quelle: il debito raddoppia negli anni 80 e arriva al 100% nel 91. Non è che possiamo cambiare anche le cifre. Traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. Allora andiamo alla borsa. Sì, vedo molti messaggi di gente che si ricorda benissimo. Guardate che il debito non si misura mai in termini assoluti, intanto perché c'è l'inflazione in valore nominale e poi perché quello che interessa l'Europa e a ogni investitore non è il valore assoluto del debito, 1000 euro, 1 miliardo di euro, ma è il rapporto al PIL, okay? Un po' come in una famiglia, se tu dicessi che debito hai e quanto è il tuo fatturato, questo è il rapporto che interessa. Vabbè, Borsa, l'onorevole Micheli, al di là di Unicredit, di cui parleremo in maniera approfondita dopo il GR24, oggi in evidenza Ferrari, ma anche Case New Holland, CNH più 5,40%, Ferrari più 3,70%, bene anche Steamark Electronics più 5%, Poste più 3,80%. A te l'intero, esatto, commento in un minuto e mezzo. Esatto, per quanto riguarda Ferrari i titoli sono scattati dopo la pubblicazione dei conti 2016, risultati sopra le attese, ovviamente in crescita. In più la società ha indicato che anche nel 2017 dovrebbe continuare a correre con un fatturato che dovrebbe salire fino a 3,3 miliardi, mentre il debito dovrebbe scendere attorno a 500 milioni. Numeri che sono piaciuti ovviamente al mercato, che ha subito premiato i titoli. Peraltro oggi della Galassia Agnelli, come hai detto tu, si sono riscattate le CNH dopo la debolezza dei giorni scorsi, mentre si può dire sono rimaste abbastanza al palo le FCA, hanno fatto solo più 0,2% all'indomani della pubblicazione delle immatricolazioni in Italia, che sì, appunto nel bel paese sono andate meglio del mercato. D'altra parte gli analisti hanno puntato l'indice invece sulle immatricolazioni negli Stati Uniti, dove la casa guidata da Marchionne ha accusato un calo delle vendite dell'11%. In Italia, ricordiamo, invece le vendite sono salite del 10%. Per quanto riguarda gli altri titoli, sì, sono andate bene Poste, ST, dopo che nei giorni scorsi la Apple ha pubblicato dei ricavi del periodo ottobre-dicembre dal record, sostenuti soprattutto dall'iPhone 7 che beneficia di alcuni componenti che vengono forniti proprio dall'azienda italo-francese, per cui il successo dell'iPhone è un po' successo di ST, ecco perché questo balzo del 5%. Allora, grazie onorevole Micheli, poi dopo darò anche i migliori e i peggiori, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Chi mi chiede: ma qual è il problema del debito? Intanto uno, che ci paghi gli interessi come tutti i debiti, e se non hai risorse per 85 miliardi l'anno, adesso un po' di meno perché i tassi di interesse sono bassi, è grazie al debito che ci siamo creati in questi decenni. GR24. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond. James Bond. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Vuoi andare all'estero? Per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti, ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 con Giovani Talenti. State ascoltando un programma offerto da... Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Gli indici, non abbiamo detto, avete ragione, più 0,80%. E Milano è la migliore oggi perché Parigi chiude invariata, Francoforte meno 0,30%, Londra più 0,40%. Dow Jones meno 0,20%, grazie soprattutto ai titoli che ricordavamo, bene anche Exor più 1,80, Generali più 1,80, Snam più 1,60, negativa appunto Saipem del 2,70, Ubi dell'1,5, Fineco dell'1%, migliori e peggiori in assoluto, Sintesi più 25%, Ross più 19%, Landi Renzo più 12%, Nova Re più 11%, peggiori in assoluto Credito Valtellinese meno 9,80%, Best Union Company meno 7,90%, TAS meno 7,80%, Energy Lab meno 7,40%. Ho tenuto fuori volutamente il titolo Unicredit che perde l'1,65% a 26,16 euro per azione, perché di questo stiamo per parlare adesso con il collega del Sole 24 Ore Marco Ferrando. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Allora, operazione a sconto, come si dice in gergo, del 38%, se uno fa il calcolo di quanto vale il titolo adesso, al netto dello stacco del diritto di opzione, con un prezzo fissato a 8,09 euro, vuol dire che lo sconto, cioè alla fine tu lo calcoli, è di quasi il 40%, il che vuol dire che per ogni 5 titoli Unicredit che uno possiede avrà 13 nuove azioni emesse. Adesso poi sarà interessante vedere come quando c'è un aumento di capitale, se tu poni al 10% di una società che capitalizza 1000 euro, se tu l'aumento di capitale porti la capitalizzazione a 2000 euro, è chiaro che se tu non partecipi il tuo 10% diventa un 5% di partecipazione. Lo dico perché sarà interessante vedere quanto, se tutte le fondazioni sottoscriveranno. Cari Verona ha detto che lo farà, ma non il 100% di quello che ha, il 73%, quindi la sua quota, che è del 2,23%, dovrà scendere, scenderà poi alla fine dell'operazione. E ancora Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha detto che si adeguerà. Allora, la technicalities, perché la borsa si muove così e come potrebbe essere il nuovo assetto, diciamo, dopo l'operazione? Sì, visto lo sconto che, come accennavi, 38%, che è uno sconto alto, il mercato prevedeva tra il 30 e il 40%, ci si è fissati sul 38%, quindi diciamo nella parte alta della forchetta. Questo perché una manovra da 13 miliardi per una banca che ne capitalizza 16, quindi, come dire, serviva un incentivo importante a sottoscrivere. Fisiologicamente, dopo questo tipo di annunci, il titolo scambiato in borsa tende ad avvicinarsi al valore, al prezzo a cui verranno emessi i nuovi titoli. Oggi è successo, ma meno del prevedibile, perché come dicevi il titolo ha chiuso con meno 1, qualcosa, siamo oltre 26 euro, quindi molto lontani dagli 8 euro a cui verranno offerti i nuovi titoli. Questo un po' conferma il clima che si era registrato nelle settimane scorse, cioè che il piano sembra aver raccolto l'interesse degli investitori. Evidentemente... Sì, ma la domanda che mi fanno gli ascoltatori, giustamente, ma perché il titolo non si adegua all'aumento di capitale, cioè non ha un tracollo di almeno il 40%, 38% del suo valore? Tecnicamente perché si prevede che pochi di questi diritti finiranno sul mercato e quindi chi li ha tenderà a esercitarli. Questo fa sì che di fatto chi oggi è azionista lo è anche per poter esercitare i diritti, e quindi ha già mediato il valore vecchio, cioè attuale, con quello nuovo. Di conseguenza, non essendoci grande mercato di diritti, è un prezzo fittizio che pagheranno in pochi, perché tendenzialmente, esercitando chi è già azionista, le opzioni di prendersi ogni 5 azioni 13 azioni, tu dici non ci sarà mercato su questo, e quindi chi li ha se li tiene, esercita i diritti e poi il prezzo si adeguerà, ma non c'è speculazione in borsa. Come quando saranno vediamo... in pochi a poter effettivamente sottoscrivere ex novo le nuove azioni, appunto, a 8 ecco euro. Perché saranno in pochi? Perché, come dicevamo, buona parte degli azionisti ha già i diritti. Esatto, non dimentichiamo che di questo aumento di capitale si parla da mesi, anche l'ammontare 13 miliardi ormai è stato ufficializzato a metà dicembre, ma era da ottobre, da settembre che il mercato ne era consapevole. Quindi è probabile che soprattutto nel mondo degli istituzionali, dagli hedge agli istituzionali di medio e lungo periodo, che sono entrati, si sono posizionati sul titolo, l'abbiano fatto proprio in vista dell'aumento. Non dimentichiamo che da quando Mustier, amministratore delegato, ha presentato il piano, era il 13 dicembre, e oggi il titolo non si è mosso molto. Questo appunto è di nuovo un fatto strano che evidentemente dimostra che c'era consapevolezza. D'altronde Mustier, uomo di mercato, sicuramente aveva lanciato i messaggi giusti, di conseguenza non c'è lo stupore che giustificherebbe o accenderebbe grande volatilità. Allora, in questo momento UniCredit, che capitalizza circa 16 miliardi e mezzo, quindi fa un'operazione di aumento di capitale importantissima, perché vale il 70% e passa del suo valore. I principali azionisti sono Abar, quindi Emirati Arabi, con il 5%, BlackRock, fondo colosso dei fondi mondiali, con il 4,8%, Cari Verona con il 2,3% e Cassa Risparmio Torino con il 2%. Da quello che si è capito, vedi il caso di Cari Verona, come sarà, come muterà la, diciamo, compagine dei soci, quelli di peso? Le fondazioni che oggi complessivamente, tu citai le principali, Verona e Torino, ma complessivamente oggi hanno il 6-7% del capitale, non dimentichiamo da 2 anni devono rispettare una norma introdotta dal MEF che prevede che non possano avere più del 33% del capitale investito su un asset. Quindi le fondazioni Verona, Torino, ma soprattutto le piccole, perché più scende il capitale più aumenta evidentemente il peso della partecipazione di credit, sicuramente si diluiranno. Diverso per gli istituzionali, citavi BlackRock, c'è un altro azionista importante che è Capital Research, che è dato oltre il 6%, poi sui fondi la visibilità è ridotta, è entrato a settembre, quindi quando già sapeva dell'aumento, pur non avendo dettagli sulla cifra, è probabile che difenda la quota, così come dovrebbero farlo gli arabi di Abar. Hanno preso, bisogna dire, molte mazzate sull'investimento UniCredit, sono dentro da anni, hanno perso buona parte dell'investimento, negli ultimi anni non se la sono passata benissimo. In realtà l'ultimo bilancio del 2015, l'ultimo che abbiamo visto, era meglio degli ultimi, è probabile che abbiano abbastanza fieno in cascina per sottoscrivere per i 600 milioni necessari. E comunque sicuramente da questo aumento, così come era accaduto 5 anni fa con l'ultimo aumento da 6 miliardi e mezzo, uscirà sempre più public company, quindi molti più fondi e molte meno soci storici. Non dimentichiamo che c'è anche una compagine di imprenditori italiani, Caltagirone, Del Vecchio, sembrano orientati a sottoscrivere più per difendere, diciamo, l'investimento del passato con relative perdite, nella speranza di recuperarne una parte, che non probabilmente perché vedano un futuro di medio-lungo periodo in questa banca. Allora vedremo, ricordo anche le date, dal 6 febbraio al 10 marzo prossimi l'aumento di capitale di UniCredit. Mi sembra che per ora, come tu ricordavi, l'averlo annunciato in maniera con un largo anticipo, avere preparato gli investitori, che sono quelli che sottoscriveranno il grosso, abbia creato maggior calma, sicuramente calma sul titolo, oggi si è mosso pochissimo, staremo a vedere dal 6 febbraio al 10 marzo prossimi, quindi più di un mese per l'aumento di capitale. Grazie a Marco Ferrando, andiamo sul GR24 e poi sul traffico, scusatemi, e poi parliamo di fisco. No, non devono fare un altro GR i colleghi, parliamo di fisco, ma dopo il traffico. Focus Economia. 18 e 17 minuti. Io capisco il passare del tempo perché ogni anno si ripresenta l'appuntamento con Telefisco, evento importantissimo per chi ha dentro le materie fiscali, non solo. Siamo alla 26esima edizione. Ogni anno abbiamo il vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula, che segue, coordina l'intera attività, e ogni anno lo vedo più invecchiato. No, scherzo, dico, però insomma, però hai ragione, però è un po' così. Va bene, allora andiamo avanti con Rossella Orlandi, direttrice dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta oggi appunto per Telefisco, che ricordo sono 100 sedi collegate da tutta Italia con la sala centrale di via Monterosio. Poi spiegheremo anche le domande inevase, che cosa succederà nei prossimi giorni, Chicco. 122 miliardi di euro di evasione l'anno, visto che il governo promette di combattere l'evasione con un miliardo, il 4,5% del PIL. Dove si concentra l'evasione? Sull'IVA 40 miliardi, un terzo del gettito viene evaso, l'IRPEF 23 miliardi, IRES 5 miliardi, IRAP 3 miliardi, altre imposte 16 miliardi, poi contributi ai lavoratori 34 miliardi. La Orlandi, quindi Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha detto che il problema di tutta questa evasione fiscale è l'IVA, come si capisce anche dai dati, perché è doppia rispetto alla media europea, un fenomeno patologico. Chi lo fa poi riesce a praticare prezzi migliori, te credo. Intervenire tempestivamente per un recupero di evasione IVA è il problema principale di questo paese. Quindi un fisco più semplice per i contribuenti? Io mi auguro di sì, cerchiamo di fare il possibile in modo che l'adempimento, che comunque riguarda qualche milione di contribuenti con partita IVA e soprattutto i loro professionisti, abbiamo cercato di farlo il più semplice possibile. D'altra parte, le norme che accompagnano questa introduzione di nuovo sistema hanno eliminato moltissimi altri adempimenti, quindi un bilanciamento fra le esigenze fondamentali del recupero dell'imposta evasa e la necessità per i cittadini di non avere adempimenti maggiori. La lotta all'evasione fiscale quindi è una delle priorità, ma soprattutto perché è necessario recuperare anche fondi? Io credo che in un paese civile, per prima cosa, l'imposta debba essere distribuita equamente fra tutti e che tutti debbano assolvere al proprio dovere, quindi è sempre una priorità. In un momento come questo è ancora una maggiore priorità, perché serve veramente a tenere in ordine i conti dello Stato e a evitare probabilmente tagli. Allora, no, sorrido perché... cioè, Barisoni, invece di fare lo pseudogiornalista faresti meglio lavorare in miniera. A parte il fatto che le miniere, purtroppo, come sanno gli dipendenti del Sulcis, le hanno chiuse. Due, non capisco perché offendere i minatori, no? Come una volta si diceva, braccia rubate all'agricoltura, ma diciamo braccia rubate alla finanza, con quello che ha fatto la finanza dal 2000 fino al 2008 e in poi. E poi voglio dire, non offendete i muratori, i minatori, né i muratori né gli agricoltori, no, per favore, offendete me, ma non chi lavora seriamente ed anche in crisi. Allora, Chicco Padula, i temi toccati oggi e soprattutto cosa succederà alle domande, tra virgolette, inevase? Ah, sai, è stato un altro Telefisco, devo dire, dei record, perché tu hai detto 100 sedi, in realtà noi ne avevamo 132, quindi cavolo, è stato veramente un successo incredibile. Siamo stati seguiti moltissimo anche sul web, in streaming. Il nostro sito ha avuto più di 100.000 utenti unici sulla pagina di Telefisco, quindi devo dire un interesse veramente molto elevato. Un interesse elevato perché questo è un anno un po' particolare, ci sono tantissime novità che riguardano molti contribuenti, i piccoli contribuenti, c'è la nuova IRI, c'è il regime di cassa, c'è la rottamazione delle cartelle, e diciamo i temi principali trattati a Telefisco sono stati proprio questi. Sono arrivate risposte, diciamo, molto importanti. Le risposte saranno domani integralmente, le risposte dell'Agenzia delle Entrate saranno domani integralmente sul giornale. Lunedì avremo una coda con alcune parti di risposte che riguardano aspetti più tecnici, il contenzioso tributario e la fiscalità immobiliare, e poi da dopodomani sul sito del Sole 24 Ore ci saranno invece le risposte dei nostri esperti alle domande che hanno inviato i partecipanti a Telefisco. Allora, su che cosa si sono concentrati? È difficile raggruppare un tale affluenza in clusters, come dicono quelli che hanno studiato. Il vice ministro Casero e si è concentrato sul milleproroghe, che era uno dei temi affrontati, dicendo ritengo che sia necessario affrontare il tema dell'invio dei dati, delle fatture, fondamentale l'ipotesi di mantenere una periodicità trimestrale delle comunicazioni IVA. L'adeguamento della normativa fiscale a quella nuova civilistica europea è una necessità che hanno tutti, tutte le imprese e anche i professionisti. È un tema su cui stiamo lavorando da tempo e c'è un'ipotesi pronta. Non è stata inserita nella legge di bilancio per motivi particolari. A un certo punto al Senato è stata interrotta la discussione con la caduta del governo. Verrà presentato in questi giorni un emendamento al milleproroghe che fondamentalmente risolve la questione e permette di avere una uniformità fra bilancio fiscale e quello civilistico a seconda delle nuove normative. Per quanto riguarda invece comunicazioni e invio dei dati, quello che viene definito spesometro, noi riteniamo che per come sono state impostate le nuove comunicazioni si possa andare avanti a lavorare su come sono state fatte. La comunicazione, come è stato detto anche oggi, non è altro che una sintesi dei dati che permettono di fare la liquidazione IVA e che quindi quelli possano rimanere trimestrali e nel 2017 lo spesometro, quindi l'invio delle fatture emesse e ricevute in via sperimentale diventi semestrale. Presenteremo un emendamento in questi giorni e vedremo se almeno per il 2017 questa semestralità la prima volta esiste, poi nel 2018 può darsi che possa ritornare anche annuale, vedremo come andrà. Allora, l'Orlandi l'abbiamo sentita e anche Casero sull'IVA, cioè l'Agenzia delle Entrate è, da se ho ben capito, concentrata su tutta l'evasione, ma in particolar modo sull'IVA, Chico. Sì, guarda, questo effettivamente... Il 33% del totale è pazzesco. Sì, tra l'altro devo dirti che legato a questo tema dell'evasione IVA, che ha, diciamo, portato per i professionisti un nuovo obbligo che consiste nell'inviare trimestralmente, diciamo, le liquidazioni periodiche dell'IVA e ogni tre mesi pure, ma il primo anno saranno sei mesi, le fatture, il vecchio spesometro. Beh, su questo c'è una protesta enorme da parte dei professionisti che si sentono, e oggi, diciamo, è anche venuta fuori durante il nostro telefisco. C'era il nuovo presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Massimo Miani, che ha ribadito, diciamo, la contrarietà della categoria su questa cosa. Quindi da Casero e dalla Orlandi oggi sono, devo dire, arrivate due aperture molto importanti. Una riguarda appunto questo tema delle comunicazioni IVA, che non risolve completamente tutti i problemi sollevati dai commercialisti, ma sicuramente fa un passo in quella direzione. Vedremo poi nelle prossime settimane che cosa accadrà. E l'altra è quella che diceva proprio Casero a proposito del raccordo tra fisco e bilanci, cioè da gennaio sono entrate in vigore nuove regole per predisporre i bilanci da parte delle società che non adottano gli IAS, cioè praticamente tutte le società di capitali, no? Tranne quelle quotate in borsa e le banche. Però mancava una norma che consentisse il raccordo tra la nuova normativa, diciamo, ai fini civilistici, le regole per i bilanci, e quella fiscale, col risultato che 1.100.000 società non sarebbero in grado di preparare la dichiarazione dei redditi. Casero oggi ha detto che sarà approvato un emendamento, che è stato infatti presentato nel pomeriggio, che risolve questo problema. Quindi sono arrivate, diciamo, due indicazioni molto molto importanti sul fronte delle comunicazioni IVA e sul fronte dei bilanci. Sugli altri temi direi che il più gettonato in assoluto è stato quello della rottamazione delle cartelle. Sappiamo che interessa centinaia e centinaia di migliaia, forse milioni di contribuenti. Qui l'agenzia mi sembra sia stata un pochino più severa nelle sue risposte, ne voglio solamente citare una. Ci si chiedeva se, diciamo, per quelli che hanno in corso il pignoramento dello stipendio, se la richiesta di rottamazione bloccasse il pignoramento. L'agenzia è abbastanza rigida e dice no, il pignoramento dello stipendio si blocca solo quando si finisce di pagare la rottamazione delle cartelle, quindi, diciamo, uno deve continuare a subire la trattenuta sullo stipendio. Sì, che è una linea appunto più dura rispetto a quella che aveva, diciamo, illustrato l'ex governo stranamente prima del referendum del 4 dicembre. Certo. Ma questo, insomma, siamo uomini di mondo da questo punto di vista. Ancora, Chico, dal punto di vista della rottamazione, vedo molti messaggi anche su questo. Quali invece conferme, quindi garanzie sono state date? Ma sai, la rottamazione, diciamo, presenta molte criticità per quelli che hanno una rateazione in corso, no? E un altro problema sollevato da molti partecipanti a Telefisco, quindi da molti contribuenti, è il seguente. Cioè, se io faccio domanda di rottamazione, quindi invio a Equitalia la documentazione, poi non so quanto devo pagare, perché è Equitalia che mi fa il calcolo. Ma nel momento in cui Equitalia mi risponde e mi dice devi pagare la quota X, e io ritengo quella quota, diciamo, eccessiva, non adatta, diciamo, non sopportabile da me, allora che cosa posso fare? Posso recedere dalla richiesta di rottamazione? Purtroppo ancora non si capisce, neppure le risposte. Che è la cosa più bella per uno che deve pagare le tasse, no? Non sapere. Purtroppo ancora non si capisce, però diciamo ci sono ancora un paio di mesi per chiarire queste cose, perché poi il 31 marzo entrerà nel vivo questa operazione. Allora, grazie, ricordo domani le risposte, lunedì la coda e poi sul sito internet del Sole 24 Ore tutte le risposte dei singoli contribuenti o commercialisti o contribuenti e commercialisti. Allora, è veramente tutto per questa puntata. Qualcuno mi dice, ma come fa lei a sopportare le critiche? Ma guardi, a parte che fa parte del lavoro, le critiche, per carità, ci sono da sempre. E poi sa, se uno è abituato a tifare Hellas, è abituato insomma alla sofferenza. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berisoni le auguro una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.